fianco ai tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, solo tu. Bye.

prima otto son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, se andiamo avanti così, chissà come si farà. Giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez, poi mi hai detto cocorito, non mi compri colpa te, e sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Susanna, Susanna, Susanna, Susanna, mon amour. E io turista ticinese, tu regina di Pigal, indossavi un pechinese ed un triangolo di Strauss. Ho detto vieni via con me, tu mi hai detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va. Susanna, sono sulle spese, in balia degli usurai, sovvenziono quattro streghe, per poi sapere dove stai, e il tuo marito sta qui da me. Aspetto in quel solito bistro, ho firmato un metro quadro di cambiare agli usuali.

tuoi, lei mi guardò, io non parlai, e come Giuda la baciai, io non giocai quella notte al poker, ma sono stato insieme alla sua amica, guardando me, sembrava che lei mi leggesse la verità, e con le mani accarezzandomi le labbra, mi perdonava quel che lei non saprà mai. Io amo lei, soltanto lei, ma perché mai l'avrò tradita? Io amo lei, soltanto lei, ma perché mai l'avrò tradita?